Dove sei? Ti ci devo chiedere una cosa. Aiosa. Ti devo chiedere una cosa importante per il mio futuro. Ho bisogno di sapere che disco è questo. Sai che mi sento un po' strano? È musica molto particolare. Quasi ancestrale, che mi sale e mi fa molto male. Mi sale nella testa. C'è dentro una tempesta! Oh, oh! DJ! Stoppa tutto un attimo! Fermati un secondo! Credo che ho sbagliato il testo della canzone, perché me ne è venuto in mente un altro. Perché quello originale faceva... Sicuro che nel disco la cosa più importante ci deve essere un sax. Adesso però il sax m'ha già spaccato i coglioni. Bento.